appunto non è l'assistenza a tempo indeterminato, ma è fornire gli strumenti, per esempio, per una vita indipendente. Fornire aiuto non alla famiglia che si prende carico della cura, ma alla comunità all'interno della quale la persona disabile è inserita come cittadino o cittadina attiva, e così via. Questo è un, ripeto, un paradigma che ha veramente cambiato molto il modo di fare ricerca. C'è, ricordo uno schema che mi fu molto utile di un ricercatore inglese che ha preso un questionario che avevano fatto ai disabili inglesi per capire quali erano i loro problemi, e gli facevano tutta una serie di domande, no? Tipo come le tue cicatrici limitano le tue attività quotidiane, quanto è difficile muoverti nel quartiere in cui vivi, eccetera eccetera. Lui ha preso tutte queste domande e le ha riformulate dal punto di vista di un modello sociale della disabilità, e la prospettiva viene completamente ribaltata, per cui allora non si chiederà alla persona com'è che, quali sono le tue difficoltà nel muoverti nel quartiere, si chiederà quali sono le barriere ambientali presenti nel quartiere che ti rendono difficoltoso muoverti, così via. Ovviamente questa è una versione ideologica della disabilità, quindi è un modello che è stato elaborato all'interno di un contesto politicamente molto urgente, e quindi, come dire, ha degli aspetti necessariamente, diciamo così, un po' superficiali. Per cui, se da una parte è assolutamente condivisibile il fatto di voler fare della disabilità un problema non dell'individuo ma una responsabilità sociale condivisa, è anche vero che all'interno di questo modello scompaiono molte cose. La prima cosa che scompare è il corpo, cioè il corpo disabile nella sua materialità viene un po' oscurato, perché tutta l'attenzione è posta su quelle che sono le barriere ambientali. Penso che nella situazione, poi nello specifico italiano, in realtà sia forse ancora il caso di porsi in una maniera così un po' tagliando con l'accetta e un po' anche ideologica, nel senso che, dato la generale, le politiche generali che sono così tremendamente assistenziali, così caritatevoli, così tanto accollate alle famiglie, forse qui abbiamo ancora bisogno in realtà di un modello sociale di disabilità. Comunque, tornando invece allora alla questione di cercare di tenere insieme l'importanza, diciamo, il fattore sessualità e il fattore disabilità nella costruzione del soggetto. Allora, la sessualità dei disabili è disciplinata principalmente attraverso la negazione, attraverso la sottrazione, la censura. Di solito si dice che l'argomento è un tabù. Ma sì, è un tabù, ma insomma la negazione della sessualità delle persone con disabilità è considerata in realtà un fatto quasi naturalizzato. Perché? Ma perché il riconoscimento della possibilità di accesso alla sfera sessuale da parte delle persone disabili genera molta confusione, molto allarme e disapprovazione. Si tratta di tensioni profondamente radicate, perché viene messa in crisi non solo l'idea di sessualità come, diciamo, come attività, come comportamento, come copione, ma anche proprio la concezione di soggetto con la S maiuscola, in quanto soggetto dotato di autonomia, di controllo, di un'identità bene o male stabile. Al contrario, il soggetto disabile è solitamente costruito come mancante, come insufficiente, come non del tutto finito, sostanzialmente come inadatto, cioè non legittimato ad occupare quel posto di soggetto e oggetto del desiderio. Questa idea di non finitezza, di vulnerabilità, di dipendenza che è associata al soggetto disabile spesso lo avvicinano al bambino, no? Infatti uno dei meccanismi più comuni di desessualizzazione dei soggetti disabili è proprio l'infantilizzazione. Se voi pensate a questo fatto che i bagni, le toilette intendo, di solito quando c'è il bagno dei disabili, e questo è accorpato a uno dei due bagni, di solito è accorpato al bagno delle donne. E però, vuol dire, disabile non è un gender, cioè, sono sia maschi che sia femmine, no? E se pensate qual è l'altro soggetto maschile che può attraversare impunemente il bagno delle donne, sono i bambini, i bambini maschi piccoli. Dunque, ci sono varie condizioni del corpo nella disabilità che in qualche modo mettono in crisi questo tentativo normativo di controllo e diciamo ordinamento in qualche modo del potere potenzialmente destabilizzante della sessualità. Cioè il fatto che la sessualità sia una parte dell'esperienza umana così fortemente regolata dalla società, il fatto che abbiamo bisogno di fare affidamento su delle norme, su dei copioni, così esplicitamente quando ci avviciniamo alla sfera sessuale, è perché la sessualità è una faccenda molto pericolosa. Cioè, c'è un problema di controllo, di perdita del controllo dei confini del corpo, dei confini della propria soggettività e di quella dell'altro, che viene messa in atto in qualche modo nell'incontro sessuale, in generale nell'esperienza della sessualità, che quindi va in qualche modo normata. Allora il corpo disabile ha accesso, ha meno facilmente accesso a questi meccanismi di normalizzazione della sessualità. Allora, per esempio, il controllo, la capacità di controllo del corpo, di cui il disabile viene costruito come privo, è in realtà un qualcosa che noi ritendiamo essenziale per poter entrare legittimamente nella sfera sessuale. Oppure per esempio il fatto di possedere una determinata competenza comunicativa. Anche questo è un fattore che riteniamo molto importante per poter avere una sessualità, perché la nostra sessualità dovrebbe comunque essere sempre negoziata su base paritaria, consensuale, eccetera. E in qualche modo questa parità sembra che il corpo disabile non sia in grado di raggiungerla, diciamo così. Il corpo disabile inoltre viene squalificato e delegittimato dall'accesso alla sessualità perché viene anche delegittimato nelle sue potenzialità riproduttive. E questo è un altro chiaro punto di contatto con la posizione non eterosessuale. C'è una negazione molto forte della possibilità delle persone disabili di riprodursi, un po' perché questo implicherebbe che abbiano una sessualità, il che di fondo insomma non è esattamente incoraggiato. E poi c'è anche una forte ingiunzione in particolare alla maternità, che è poi la paura sociale che i mostri generi in mostre, no? E siccome i diritti sessuali sono più facilmente assegnati alle coppie, ovviamente alle coppie eterosessuali e alle coppie che possono assicurare questa riproduzione di futuri cittadini sani, e allora capite come da questo discorso la soggettività disabile sia esclusa e come si crei un circolo vizioso di delegittimazione della propria soggettività sessuale e anche della possibilità di poter accedere a una piena cittadinanza. Io credo che, tornando a, diciamo, questa intersezione tra il ruolo della eterosessualità e il ruolo della abilità, che siano un po' due diciamo aspetti della stessa medaglia, due facce della stessa medaglia, diciamo così, che va a creare appunto il soggetto con la S maiuscola. Io ritengo che l'asse dis sbarra abilità si collochi ancora prima dell'asse eterosessualità identificazione di genere, che lo preceda, insomma. Sappiamo, perché siamo cresciute leggendo Judith Butler e Compagnia Bella, che dalle condizioni della propria performance di genere dipendono le condizioni della propria esistenza. Quindi non è roba poco, insomma. Allora, se la desessualizzazione della persona disabile va a inficiare questo processo di acquisizione di una identità di genere normata e di una sessualità normata, allora diventa un processo che ha a che fare non solo con il genere o con la sessualità, ma proprio con le condizioni di vivibilità di un determinato corpo e di una determinata posizione soggettiva. Forse possiamo intanto fare una pausa interlocutoria, visto che abbiamo un po' posto, diciamo, un minimo di carne al fuoco. C'è da mangiare fino all'anno prossimo. E vediamo un po' come procede. Bene. Non so se tu, Vale, vuoi prendere la parola tu. Allora, ovviamente chiunque vuole fare riflessioni o domande è benvenuto o benvenuta. Intanto ringrazio Elisa che è riuscita, come dire, a gettare delle basi abbastanza solide sulle quali poter iniziare a costruire un percorso, e dico iniziare perché in Italia di teoria sulle disabilità o creep theory se ne parla ancora molto poco, quindi speriamo che da questo dibattito iniziamo anche un po' più, soprattutto nell'ambito sociale, a parlarne un po' di più, provando a porre appunto in parallelo corpi, esperienze e narrazioni. E la cosa che mi faceva un po' sorridere quando hai iniziato la tua narrazione è che, pensandoci bene, anche io mi sono affacciata a tutto ciò quando mi sono rotta un piede e ho passato 2 mesi sulla sedia a rotelle, e mi sono accorta che per passare da San Lorenzo a San Lorenzo in 400 metri erano più o meno 40 minuti, cappottandomi di secondo in secondo ogni buca. Siccome sono abbastanza leggera, chi mi trasportava, diciamo, aveva serie difficoltà. è stata una condizione personale in cui ti rendi conto appunto che tipo di disabilità è quella che vivo, soprattutto una cosa inaspettata, ma soprattutto una cosa che ti fa sentire disabile rispetto al contesto in cui stai, per cui il deficit potrebbe non essere deficit se l'ambiente intorno a te fosse banalmente preparato con delle cose semplici, se parliamo ovviamente di disabilità di questo genere. Rispetto alla sordità, giusto, volevo aggiungere un'altra cosina, premettendo che oggi avevamo previsto il servizio di interpretariato, infatti se vedete in fondo a voi ci stanno delle ragazze che stanno muovendo le mani e le stanno muovendo fra di loro, perché purtroppo non sono venute persone sorde a questo dibattito, un po' per l'orario non proprio felice e un po' anche perché è difficile iniziare a fare un discorso collettivo che parta dalle esperienze e dalla narrazione, però penso che la sordità nello specifico sia una disabilità, una delle disabilità più manifeste rispetto al discorso che facevi, perché è una disabilità in qualche modo nuova, tra virgolette, nel senso che a livello di visibilità fra le persone è molto più semplice incontrare una persona su una sedia a rotelle o con delle menomazioni che una persona che utilizza una persona sorda che utilizza la lingua dei segni, ad esempio. E parliamo anche di una disabilità più particolare, perché parliamo di persone che non hanno accesso all'informazione tanto quanto ce l'hanno tutte le altre persone, per cui ad eventi come questo, eventi culturali, sociali, ma anche teatro, film, spettacoli e quant'altro, ci troviamo di fronte a una reale barriera che nega l'informazione e la conoscenza. E non so se il nostro caro Cyrus, che vuole intervenire, ti puoi accomodare a questo tavolo che già conosci. Io sono molto felice intanto di conoscere Lisa, perché ho letto ed ero un suo detrattore, lo ammetto, cioè faccio un'ammissione, perché da scrivere il sesso, che mi aveva poco convinto perché vedevo la materialità dei corpi scomparsa, quindi ammettevo proprio ieri, caspita Lisa, cazzo, la lano completamente, il dolore l'ha rimosso, mi ha fatto ricredere, quindi ammetto la mia, cioè siamo qui per confrontarci, non lo sapevi perché non ci conoscevamo, e lo sai, insomma, mi svelo in tutta la mia autenticità, se posto che esista, e mi ha convinto moltissimo il tuo discorso, veramente tanto, perché in qualche modo, cioè il tuo discorso dovrebbe portarci a ristrutturare le categorie conoscitive, e c'è anche una parte, per esempio, delle neuroscienze che da Damasio in poi, per esempio, che discute moltissimo la dimensione corporea, di qualunque corpo si stia parlando, e della possibilità di costruire conoscenza attraverso la dimensione affettiva che tutti riusciamo a praticare. Quindi la tua attenzione sulla pratica, la tua attenzione adesso a riportare il dolore all'interno del discorso sociologico mi convince moltissimo, quindi hai, in qualche modo diventerai un'interlocutrice preziosissima da ora in poi. La cosa che mi interessa da un punto di vista metodologico invece è come, visto che tu considerai la tua esperienza, d'accordo, il femminismo, mi convince moltissimo e lo condivido, la tua dimensione di co-ricercatrice con i soggetti di ricerca, e mi chiedo che tipo di limiti o di vincoli o di difficoltà si incontrano, lasciando perdere la politica accademica, quella è tutta un'altra storia, proprio nella pratica di ricerca, nell'incontro con le disabilità. Questo te lo chiedo perché, per esempio, ho condotto in Sicilia una ricerca proprio sulla popolazione GLBT sorda, per me è stato molto difficoltoso per una serie di questioni, intanto perché non conosco il LIS, questo è un nostro limite, intanto un limite, mea culpa, perché da docente universitario mi pongo questo problema, e nello stesso tempo perché poi alla fine anche all'interno questa stratificazione dei corpi, questa gerarchia si riproduce in maniera molto violenta anche all'interno della comunità LGBT, Ora mi chiedo, in che modo il tuo posizionamento e che tipo di risorse puoi ottenere metodologicamente nella corricerca con soggetti disabili? Lesbica, gay, bisex, trans, intersex. Sì. Sì, grazie Cirus. Ma dunque, rispetto alla questione metodologica, per quanto riguarda i limiti, io nella mia pratica di ricerca credo che il problema principale che ho dovuto affrontare è stato proprio quello di accesso al campo. Nel senso che la popolazione disabile in Italia vive principalmente nelle famiglie, vive spesso con, stiamo parlando di persone adulte che quindi vivono con genitori a quel punto anziani, e c'è una forte tendenza alla protezione. Per cui l'accesso appunto a... poi vabbè, tieni conto che io facevo anche una ricerca sulla sessualità, per cui se già ti si rizzano i capelli, quando dici sessualità gli si rizzano il doppio. Quindi probabilmente se uno fa robe più presentabili, tipo sulle barriere architettoniche, cose di questo genere, c'è un po' più di apertura. Però ecco, per me la cosa più difficile è stata cercare di... entrare nel campo instaurando un rapporto con i soggetti che non fosse mediato da il genitore, l'assistente o chi per lui o per lei, perché poi questo ovviamente ti sfasa tutto il processo di ricerca, perché insomma non con tutte le buone intenzioni che uno può avere, poi non si riesce a instaurare questo rapporto di parità o comunque collaborazione, diciamo così, se hai, come dire, il genitore che dà le risposte al posto del figlio. D'altro canto, però, per esempio, lavorando con i maschi eterosessuali, cercando di parlare con loro della propria esperienza di essere maschi, di maschilità e di sessualità, mi sono anche resa conto che il mio essere donna, o comunque risultare per loro tale, è stato un vantaggio che potevo, diciamo, usare in maniera strategica. Per cui, come dire, mi sono anche in qualche modo prestata a, come dire, ad essere per loro l'occasione di una performance di genere che si sentiva per loro, insomma, gli mancava spesso. E quindi, insomma, si è trattato anche molto di giocare in maniera strategica sulle informazioni che si hanno su di sé o che non si hanno. E, rispetto invece a, per esempio, alla condizione dei sordi. Ma innanzitutto voglio dire, c'è chi ritiene non si debba neanche parlare di disabilità, ma sia più corretto parlare di minoranza linguistica quando si parla delle persone sorde. Per cui sicuramente è forse uno degli esempi più evidenti di come la disabilità sia in primis prodotto ambientale. E invece è interessante, secondo me, il discorso sulla visibilità, cioè su disabilità visibili e disabilità invisibili, e anche qui il dialogo con le elaborazioni di teoria queer o di studi gay e lesbici sulla visibilità gay e lesbiche, per esempio sul coming out, potrebbero essere molto interessanti da intersecare, cioè che cosa significa venire fuori come persona gay o lesbica, cosa significa venire fuori, dichiararsi come persona disabile, eccetera. Sicuramente le disabilità invisibili, a prima vista, diciamo, che possono essere appunto la sordità, oppure malattie croniche, so io, occupano uno status particolare che può essere, diciamo, da una parte strategicamente avvantaggiante, dall'altra parte molto svantaggiante, nel senso, come tutti i passing, passare per abile può essere in alcuni casi un vantaggio, in altri una delegittimazione, perché poi magari all'interno della propria comunità invece si è considerati come meno di disabili, o addirittura lo si è considerati anche all'interno della società normata, che comunque vede la disabilità invisibile come una disabilità non del tutto legittima, insomma. E volevo dire un'altra cosa, ma è sfuggita. Io volevo aggiungere una cosa sulla domanda di Cyrus, che rispetto alla metodologia, no? Che in Ricerca Landia e in Accademicandia, vabbè, insomma, nella terra dell'accademia e di chi studia si chiama metodologia, nella terra di chi fa politica forse si chiama condivisione, possibilità di collettivizzare determinate esperienze. La difficoltà, soprattutto, che è un po' quella che diceva Elisa, è sulla questione della visibilità, cioè, nel senso, a oggi, se vuoi intervistare, parlare o pensare di provare a fare un collettivo o di mettere insieme esperienze di gay e lesbiche a Roma, più o meno sai, no? Dove andare, perché ci stanno delle associazioni, ci stanno dei luoghi, ci stanno anche dei ghetti in qualche modo. Se parliamo di sordità o disabilità, è molto difficile che si trovano dei luoghi non predisposti solo alla cura e al controllo di questi corpi. E lì dove si trovano, come dire, persone accomunate dalla stessa disabilità, il problema è che spesso non c'è consapevolezza della disabilità. E sono molto d'accordo che la sordità non è una disabilità, ma è una minoranza linguistica, ma a oggi siamo a livello ancora prima, nel senso che lo sforzo che si sta provando a fare, partendo dalle persone sorde in primis, è provare a dire sordo e non udente, o audioleso, o tutta quella valanga di termini che la scienza e la medicina hanno prodotto. Ma dire sordo oggi non significa necessariamente avere una coscienza e una consapevolezza di quello che la sordità rappresenta in questa dimensione sociale. Quindi metterei accanto alla parola visibilità quella della soggettivazione, in qualche modo, ovvero avere la consapevolezza di quello che si è e anche provare a condividere l'esperienza del proprio corpo con altre persone. Quindi sì, c'è un grosso limite su quello che diceva Cyrus nel parlare e nel condividere anche queste questioni anche a livello di ricerca, perché poi per anni si è provato, ad esempio, a parlare di, mi ricordo qualche anno fa quando è iniziata la campagna sulla depatologizzazione del transessualismo, ad esempio, no? Che si chiama Stop 2012, ed era una campagna per depatologizzare il transessualismo dai manuali diagnostici. Una campagna che ha attraversato l'Europa, ma non solo, che in Europa sicuramente è molto più forte dell'Italia, e che in Italia ha trovato alcuni gruppi molto sparpagliati, soprattutto a Roma e a Torino, se non sbaglio, e si prova a fare questo discorso di depatologizzare il transessualismo. Dopo mesi e mesi di discussione, il limite più grande era che non c'erano persone transessuali a parlare di questo argomento, e questo è spesso il limite fra la ricerca e la politica, che ti fa parlare di determinate oppressioni e di determinate condizioni, ma finché non ci sono i soggetti stessi che vivono una determinata esperienza, sicuramente c'è un limite nell'elaborazione, perché c'è una differenza sicuramente tra la teoria e la prassi, tanto quanto c'è una differenza tra la prassi e l'esperienza. Quindi penso che sia molto importante, se e speriamo che questo discorso, come dire, vada avanti a livello di ricerca e di politica in Italia, che si provino a mettere in campo degli strumenti di discussione dove ci sia una parità comunicativa in primis, perché penso ai sordi, ma anche una parità di conoscenze, di scambio. Ecco. Abbiamo un intervento. Ora ti posso avere il microfono? Sì. parla anche che tu sei certo Allora, io mi chiamo Roberto, ho 54 anni, sono affetto da sindrome di Norri, che è una patologia genetica molto rara, che dà cecità e sordità parziale, in alcuni casi dà anche ritardo mentale. Io sono stato molto legato alla famiglia, che mi ha in un certo senso represso le mie tendenze, ma il 26 di settembre ho perso la mamma. Da allora non capisco più nulla. Per me è stata una cosa terribile perdere la mamma così all'improvviso. E al di là di questo, io ho una famiglia molto, non direi repressiva perché non mi piacciono questi termini, diciamo molto tradizionalista. Io ho avuto sempre tendenze da estrema sinistra, volevo uscire dai giovani da estrema sinistra, fare attività culturali, artistiche, sono l'organetto, ho fatto basso, ho fatto le scuole con Sparagna, sono una persona molto attiva, sono uno scrittore a horror e quindi faccio una vita molto molto attiva, però la mancanza di gruppi in cui esprimermi mi ha molto condizionato. Al di là di questo, perché non è che mi voglio dedicare molto su questo argomento, chiesa, i miei genitori di disabili li mandano sempre in parrocchia, in chiesa, e io lo vedo molto, ho visto sempre molto ghettizzante di questa cosa. Al di là di questo, io, volendo essere breve perché è la prima volta che mi trovo qui con voi, spero che non sia l'ultima, al di là di questo io voglio dire che il problema dell'informazione non riguarda solo il disabile soprattutto, il disabile deve avere un ruolo secondario, ma la famiglia, i genitori che sono nati negli anni 20, 30, 40, rispetto ai genitori di oggi, oggi del 2000, che diventano genitori adesso, hanno molto molto meno scarsa informazione su quelle che sono le potenzialità non solo del disabile, ma anche dell'essere umano in sé. Io per esempio, mio padre e mia madre hanno sempre combattuto contro il computer, non me lo volevano fare in nessun modo, perché poi, siccome a me interessa molto la politica, fa parte di un gruppo di estrema sinistra, quindi pensavo che io contattassi Radio Onda Rossa per poter fare delle attività, trovare dei giovani. Oggi con quello che sente tanto la televisione, con quello che dice, i casini che fa, tutto quanto, sono molto prevenuto su questa cosa. Alla fine ho dovuto battermi per far valere questa mia condizione, questa mia voglia, che diciamo che io non è che voglio cercare guai, queste cose qui. Ma insomma, voglia di essere padrone e signore della mia vita. Finalmente il 5 luglio del 2010 ho avuto questa gioia di avere il computer. Quello che mi manca è una brava insegnante che mi venga 3 volte a settimana, esperta proprio di numeri, ma molte cose l'ho imparato da solo istintivamente, uso Skype, uso la posta elettronica. La posta elettronica per me è una grande piazza di divertimento, un grande giocattolone per adulti. Le persone che corrispondo non faccio mai il mio quotidiano, come stai, oggi ho fatto questo, ma parlo di politica, parlo della guerra fredda, parlo dei transessuali, parlo di molte cose. E l'idea di affrontare dei dibattiti con persone come voi su posta elettronica è una cosa che a me elettrizza molto. In questi 2 anni che le cose sono così cambiate, adesso sto veramente marciando verso il cambiamento, anche se un po' tardi, a 54 anni, ma finalmente, oltretutto io mi sono convertito al buddismo. Frequento la Soga Gakkai, un'associazione giapponese, di scuola giapponese, insomma mi vengono a prendere, sono veramente felice e mi sento veramente una persona non disabile, insomma, perché anche la non vedenza, il fatto di essere non vedente è appariscente la disabilità. Prima parlavate di diversità, di disabilità invisibile. Io ho scritto un articolo che presto verrà pubblicato sul Messaggero di un fatto che mi è successo nel maggio scorso con la Lazio, che dovevo andare allo stadio a vedere Lazio-Inter. E questo articolo verrà pubblicato dal Messaggero prossimamente, in cui mi è stato rifiutato un posto nel settore disabili solo perché non portavo la carrozzina. Quindi a mia nipote è stato detto: o lo porti con la carrozzina oppure non ci sarà spazio nel settore disabili. Allora questo mio nipote, questo me l'ha detto adesso, perché adesso io avrei voluto fare una denuncia proprio alla stampa italiana di questo fatto, e dovevo assolutamente farla questa cosa. E quindi ora scriverò questo articolo sul Messaggero, in cui spiegherò anche che cos'è la pratica invisibile, la disabilità invisibile. È l'uomo dotato che se ne sta a leggere il giornale, a guardare le figure di donne poco da bene. Questa è la vera disabilità. Nel momento che noi prendiamo un autobus, un mezzo pubblico, un treno, è il momento in cui la nostra disabilità scompare, in cui ci sentiamo come gli altri. Ecco, questo è l'aspetto che io voglio delineare su questo. Ecco, credo di aver finito, insomma. Grazie per la tua testimonianza. Io ci sono due cose su cui mi è venuto in mente di elaborare. Uno è l'acquisizione delle competenze, cioè penso che per esempio tu ci hai appena raccontato come hai 54 anni e hai imparato da poco a usare il computer per poter accedere alla comunicazione. Questa è una cosa che molti uomini abili di 54 anni non farebbero, quindi innanzitutto complimenti e grazie anche per averci offerto un esempio di come determinate posizioni che noi vediamo come fonte esclusivamente di svantaggio possono anche poi creare delle competenze in realtà in più. E poi ho trovato molto significativo l'aneddoto che ci ha raccontato del che non ti hanno fatto accedere alla partita perché non eri in sedia a rotelle. E questo è, sai, è un po' la conseguenza di un'immagine molto radicata che abbiamo di chi è disabile. Allora, innanzitutto disabile è un maschio, questa è l'idea che abbiamo. In realtà, perlomeno in Italia, ma in generale un po' in tutto il globo, la maggior parte delle persone con disabilità sono donne. E poi è in sedia a rotelle. E poi però, a parte quello, è tendenzialmente sano. Cioè, non so come dire, abbiamo questa immagine un po' del super storpio, no? Cioè di uno anche un po' figo che sì, vabbè, si da rotelle, però per il resto è anzi diacali, poi si mette due protesi, va anche a correre, vince 50.000 medaglie. Ecco, questa è come dire, è l'immagine della disabilità accettabile, no? Che è comunque una disabilità che è già di per sé in qualche modo assimilata a un altro tipo di normalità, cioè è una disabilità normalizzata, no? Una disabilità in cui la disabilità non conta, no? È la disabilità delle diverse abilità, in cui appunto esiste una condizione di diversità che però comunque, una volta superate eventuali barriere architettoniche, non porta differenza. Io credo che sia più produttivo pensare a una disabilità che invece è una fonte di differenza. Questo non significa sottoscrivere un modello in cui questa differenza crea una gerarchia e quindi questa differenza sia sintomo di inferiorità. Però comunque mi piacerebbe che si potesse valorizzare una condizione di differenza senza neanche appunto dovere in qualche modo essere vittima di un discorso normalizzante in cui solo quando il disabile riesce ad approssimarsi a una normalità nonostante la sua disabilità, allora va bene, in quel caso il disabile è validato e legittimato, in caso contrario non lo è ed è, come dire, squalificato. Così come, voglio dire, nelle elaborazioni che forse conosciamo di più e con cui abbiamo più confidenza, la persona, per esempio, omosessuale è convalidata solo nel momento in cui adotta una versione traslata dell'eteronormatività. No, mi colpiva quello che dicevi sul fatto che La disabilità porta alla narrativizzazione, per quella curiosità che ci spinge a chiedere, anche se non lo chiediamo esplicitamente, che cosa ti è successo. Ma a me viene da pensare che un po' in generale la diversità crea la narrativizzazione, cioè tutto ciò che noi non conosciamo e che non è scritto nella nostra storia di famiglia, di clan, di cultura, ci porta quel tipo di curiosità e produce anche una narrativizzazione da parte di quei soggetti, perché chiunque si ritrova a fare esperienza di diversità, un po' perché lo deve giustificare agli altri, un po' perché lo deve giustificare a se stesso, tende a imparare a dire di sé in qualche maniera. E una volta, la prima volta che sono andata in Olanda, la cosa che mi ha colpito è stato che mi giravo e c'erano moltissime persone in sedia a rotelle, tanto che a un certo punto dicevo: oh, ma qua è pieno di gente in sedia a rotelle, ma sono tutti incidenti, stanno tutti male, ma com'è che stanno? Ci ho messo un po' per capire che la differenza era che in Italia non sono visibili, perché è molto più difficile circolare per strada autonomamente in Italia rispetto all'Olanda. Contemporaneamente, quando sono andata in giro fino a prima del 2000, in comunità gay, lesbiche, eccetera, quello che mi colpiva maggiormente era il livello di avanguardia, cioè il livello di sperimentazione, di oltraggio che le comunità offrivano rispetto allo statuto normativo corrente. Oggi quello che mi colpisce maggiormente in alcune società, soprattutto appunto in nord europea, invece è il livello di integrazione. Allora, ricollego queste cose sparpagliate che ho detto per dire che è proprio il concetto di diversità, di dentro e fuori, che secondo me oggi è importante rivedere, ma non forse alla luce dell'integrazione di siamo tutti normali o siamo tutti... Una cosa interessante della teoria Storpi è che io credo che... potrebbe anche abbattere un po' delle differenze tra abilità e disabilità proprio sotto il segno della storpiaggine, perché ognuno di noi è storpio in qualche maniera, cioè la disabilità è anche una percezione interiore. Io mi sento disabile per alcune cose che non so fare, quando trovi qualcuno che va con una scheggia meglio di te e tu stai indietro come uno sfigato, ti senti veramente... Io credo che... Mentre invece questa è una cosa che la società omette, cioè noi ci relazioniamo tra noi raccontandoci quanto siamo fichi, quanto siamo bravi, quanto siamo abili. Io credo che forse unire, cioè portare il modello FIP ed espanderlo su una base di esseri umani potrebbe essere un modo per, non per livellare le differenze, però per essere tutti esseri umani, ognuno con la propria diversità e la propria narrativizzazione. Io aggiungo un'altra cosa, tanto forse ce l'abbiamo ancora un pochino di tempo prima della prossima tavola rotonda. E rispetto al discorso che facciamo prima della famiglia e del prendersi cura, nel senso che soprattutto in un contesto sociale attuale di crisi, dove i servizi vengono tagliati, dove il terzo settore sta scomparendo, dove l'assistenzialismo esternalizzato dalla famiglia ormai non c'è più, tutto quel lavoro del prendersi cura ricade sempre in maggior misura sulla famiglia e chi se ne deve prendere carico, e come dire, è una spesa che da una spesa sociale si tramuta in una spesa individuale e familiare, che sicuramente va a appesantire una condizione già esistente, la va a appesantire a livello economico e penso in qualche modo la appesantisce anche a livello di culturale rispetto a quello che significa prendersi cura, che non è più un prendersi cura nel senso di stare vicino, di condividere o di appoggiare o sostenere, ma è un prendersi cura nel senso che se non c'è qualcuno vicino a te, della famiglia, che non è retribuito per fare quello, tu non sei autonomo a fare una serie di cose. E oltre che la persona che ti è vicino non è pagata per fare quella cosa, si stabiliscono anche dei legami di dipendenza con la famiglia stessa che molto spesso sono limitanti e anche deficitari per le persone che vivono la disabilità, perché non riescono ad avere una determinata autonomia o indipendenza a partire appunto dal medico, come diceva prima Elisa, che ti accompagna un familiare e obbligatoriamente quello che riguarda te deve passare per una persona che è vicina a te. Quello, il discorso sulla cura penso che è un altro di quei discorsi lunghissimi sui quali spero che poi ci saranno altre occasioni per continuarne a discutere, ma sono molto contenta e curiosa che questo venga rimesso in gioco soprattutto adesso e soprattutto anche a partire da noi. Dico sono contenta, anche se forse è un eufemismo, perché spesso si dice manicomi sono stati chiusi 30 anni fa e quindi di quella che viene simpaticamente chiamata malattia mentale non c'è più bisogno di parlarne, perché appunto le case dei matti sono chiuse. E nell'ultimo anno si stanno avendo molti attacchi alla possibilità di riaprire dei piccoli manicomi privati che sono stati sempre, cioè in realtà non sono stati mai chiusi, ma soprattutto che si rimetta in gioco un po' il discorso della cura come unica possibilità di integrazione di un soggetto disabile o non, perché questo discorso penso che riguarda anche noi come lesbiche, gay, transessuali, intersessuali, la cura come unica via d'uscita da un sistema che non ti accetta a un sistema nel quale ti puoi integrare. Per cui penso anche sia importante tenere questo dato a mente, e soprattutto quello che ha rappresentato e che ancora oggi rappresenta la medicina e la scienza in quanto proprio dispositivo che disciplina corpi e che dà soluzioni. Ormai non lo sappiamo bene che non abbiamo mai vissuto in un paese in cui come dire, che gioca il benessere delle persone sulla prevenzione, ma solo esplicitamente sulla cura, perché sta all'interno di un sistema economico che fa un gioco abbastanza forte con tutto quello che sono le industrie farmaceutiche, e non fa un discorso sulla prevenzione, perché se facessimo tutti un discorso di prevenzione non ci sarebbero tante malattie da curare in qualche modo. Faccio un ultimo esempio che forse è anche un po' buttato lì, la DHD, per chi la conosce, la sindrome d'attenzione, di mancanza attenzione, ma la so pure dimenticata, ormai l'ho rimossa completamente, deficit d'attenzione, è una patologia psichiatrica nata una decina d'anni fa in America. Si diagnostica ai bambini dai 6 ai 12 anni, per quanto riguarda l'età infantile, e la si diagnostica quando il bambino è iperattivo, quando si alza dalla sedia, quando parla, quando scrive troppo, quando colora troppo, quando non si concentra. Al contrario, se il bambino non si concentra, si concentra troppo o scrive poco o è ritirato, si diagnostica comunque qualche altra etichetta, nel senso qualsiasi cosa tu fai, basta che è un po' di più di quella che fanno una massa definita normale, non si sa da chi, c'è subito una bella classificazione diagnostica pronta per te. Ma che sorgano malattie, etichette, io non mi stupisco. La cosa che mi lascia, la cosa più aberrante è la soluzione alla creazione di malattie, ovvero la cura di cui sopra. Per curare, come dicono gli psichiatri, la DHD si dà un farmaco che se noi prendessimo 10 grammi di chetamina penso staremmo meglio, nel senso che è un tranquillante per elefanti che nel 5% dei casi a cui è stata somministrata a bambini fra i 6 e i 10 anni ha procurato infarto. Allora io mi chiedo quanto ancora oggi abbiamo il sistema ha bisogno di creare scatolette per metterci in qualche modo, o per il corpo, o per l'orientamento, o per l'identità, o per il comportamento, o l'attitudine che abbiamo nella nostra vita quotidiana, affinché tutto questo venga normalizzato su una base eteronormativa, di dicotomia di genere, di abilità e capacità corporea, perché se non sei abile non puoi lavorare, non sei indipendente, non hai accesso a un determinato tipo di socialità, e in un sistema in cui appunto sei parte di un, cioè, sei parte stesso di un sistema che alimenta il capitalismo, per cui se non, non puoi produrre, ma hai bisogno di elementi esterni che... Mi sono arrotolata nel discorso. Vabbè, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Queste domande in alto, queste mani in alto non erano per la domanda. Franco. Sì, grazie. Per esempio Franco, che ha alzato la mano, che è arrivato adesso, ci piacerebbe che dicesse qualcosa, perché sta all'interno di qualcos'altro che noi vediamo con calma e con piacere. Al Pride Park che c'è stato quest'anno abbiamo provato ad abbozzare questo discorso che stiamo facendo adesso, molto più diciamo superficialmente, e per provare a mettere insieme le esperienze dei corpi, e fra queste avevamo anche l'esperienza degli orsi, e con loro abbiamo cercato anche di fare un discorso appunto proprio sulla rappresentazione del corpo e la percezione di sé. Solo elaboro due riflessioni su quello che hai appena detto. Uno, sì, il concetto della cura, insomma, il discorso è veramente mastodontico. Forse l'unica cosa che mi viene da dire è questa. Tradizionalmente nelle politiche della disabilità si è voluto costruire l'autonomia e l'indipendenza come un po' la panacea, la risoluzione di tutti i problemi. Per poter implementare questo tipo di visione in cui l'indipendenza diciamo risolve la disabilità, c'è bisogno di accettare un discorso in cui la cura è un servizio. Che cosa significa praticamente? Noi per esempio, io sono dipendente da il meccanico, perché non mi so riparare la macchina da sola, e quindi se si rompe vado dal meccanico, lo pago e lui me la aggiusta e mi rende indipendente. Il discorso del vivere indipendente funziona un po' nello stesso modo. Cioè, io non posso andare al bagno, pago un assistente personale che mi porta al bagno. È la stessa cosa, è ricevere un servizio, così come io ricevo il servizio di andare a farmi riparare la macchina. Il problema allora nei contesti come quello, diciamo, italiano, in cui la responsabilità sociale è scaricata sulle famiglie, è che non è possibile implementare questa relazione di servizio con i propri familiari, e quindi tutto il discorso della vita indipendente viene a mancare, nel senso che anche quando c'è effettivamente bisogno di un'assistenza, bisogna vedere chi è il soggetto che la fornisce questa assistenza. Relativamente in quello che dicevi dopo sulla medicalizzazione delle differenze, qua si dovrebbe aprire un discorso molto ampio. Insomma, credo che in questi contesti si sfondi una porta aperta quando si parla appunto dei pericoli della medicalizzazione, patologizzazione delle differenze. Che peraltro non sono un problema di oggi o di ieri. Forse la cosa più problematica, che invece mi pare sia un pochino più recente, è che questa medicalizzazione non avviene più tanto tramite un disciplinamento diretto, ma tramite un disciplinamento più, diciamo, indotto, più dolce, cioè avviene più tramite la consulenza, per cui sono i soggetti, adesso caso dei bambini non funziona qui perché il bambino non può essere consenziente, però nel caso dei soggetti adulti sono poi i soggetti stessi che richiedono una normalizzazione, quindi non parliamo più di un paradigma biopolitico, come dire, che tiranneggia i soggetti, ma parliamo di soggetti stessi che vanno a ricercare la normalizzazione. Allora forse cercare degli strumenti che consentano di comprendere questo desiderio di normalizzazione è particolarmente cruciale e ci consentirebbe anche, per esempio, di gestire meglio questo problema del coinvolgimento dei soggetti marginali, perché sennò altrimenti ricadiamo in un discorso di falsa coscienza in cui noi ci arroghiamo il diritto di andare a spiegare alla persona sorda o alla persona nera o gialla o verde come dovrebbe liberarsi. Mi sembra un po' arrogante come discorso, per cui è anche importante non strumentalizzare ai fini di un discorso politico, ai fini di una liberazione politica, i desideri e i posizionamenti degli altri soggetti, soprattutto quelli in posizione subalterna. E se non ci sono altre domande, no, chiudiamo, che fra poco inizierà la prossima tavola rotonda che avrà luogo qui. Ringrazio Elisa e tutti voi che avete partecipato, vi dico standing ovation per lei. Se volete rimanere, sicuramente rimarrete, e facciamo una piccola pausa, caffè o quello che volete, e fra poco inizierà una tavola rotonda che si terrà qui sull'intersessualità, corpo e segreto, quindi rimaniamo un po' sul tema. E a seguire il programma è molto lungo, quindi non ve lo elenco tutto, i programmi li potete trovare sui tavoli e vi aspettiamo oggi pomeriggio, stasera e domani. In verità siamo un po' spostati da qui e la faremo lì.